Crozza può piacere o non piacere, ma quello è. Il tema non è tanto quello che fa Crozza, ma è chi lo sceglie nel momento in cui viene scelto Crozza, poi sai più o meno quello che dà. Ha lo stesso modo di Fazio, una volta che viene scelto Fazio, Fazio può piacere o non piacere, ma dà alcuni asset, alcune abilities. Gli asset è quello di essere molto professionale, anche ieri ha dimostrato, più che Crozza direi che si è dimostrato che, ripeto, Fazio può piacere o non piacere, a me personalmente non piace, ma questo non vuol dire nulla, però gli va riconosciuta la grande professionalità che ha dimostrato anche in quella circostanza. Poi che dire del festival? Il festival è sempre un po' se stesso, una manifestazione che si ripete da 63 anni, sanamente nazional popolare, deve toccare, come dire, le corde profonde, appunto, nazional popolare del nostro paese. È fatta sempre con un occhio di maggiore furbizia, vista da dentro, vista dietro le quinte, avendola dovuta fare per almeno 2 volte con 2 Sanremi che hanno avuto un grandissimo successo popolare, quello condotto da Antonella Clerici e quello con Morandi che ha avuto il record storico degli ascolti di Sanremo. C'è sempre un tocco di furbizia in più che il pubblico non sempre valuta nel suo insieme. Secondo me alcune polemiche sono anche un po' cercate, giustamente cercate, perché la televisione si fa anche agli ascolti.